X24 di Giovanni Minoli. Le impressioni di una giornalista che dovunque va, dovunque si presenta, sente dire: ah, lei, Oriana Fallaci, oh, com'è cattiva. Guarda, Zatterin, parlando seriamente tra di noi, tanto nessuno ci ascolta. Nessuno ci ascolta, è chiaro. A me sembra di essere talmente buona. Se c'è una donna la cui vita è stata dedicata al giornalismo, questa è Oriana Fallaci, la più famosa tra gli inviati speciali, non solo in Italia ma in tutto il mondo. Oggi quando si dice Oriana Fallaci il pensiero corre subito a quel suo scritto pubblicato sul Corriere della Sera l'indomani dell'11 settembre dal titolo «La rabbia e l'orgoglio». Una dura requisitoria contro l'Islam che ha indignato alcuni e esaltato altri. Ma Oriana Fallaci è stata prima di tutto una straordinaria inviata di guerra in Vietnam, in Libano, nel Golfo Persico, in Messico. Ed è attraverso i suoi occhi che oggi vogliamo guardare il mondo. Oriana è stata ammirata, invidiata da tutti noi. Non era molto amata nel mondo del giornalismo proprio per questo, perché era una protagonista assoluta. Una protagonista assoluta, la definisce Ettore Mo. Oriana mette a segno il suo primo grande successo con un reportage dall'Oriente sulla condizione femminile. Poi nel 61 le storie di donne di tutto il mondo, dal Pakistan a New York, finiscono nel libro Il sesso inutile. Il sesso inutile è quello delle donne. Perché? Cosa cerca di spiegare questo libro? Cerca di spiegare che ovunque le donne vivono in un modo inutile. Cioè sbagliato, sia nei paesi dove le donne contano quanto un cammello, vale a dire nei paesi musulmani, sia nei paesi dove le donne contano troppo, vale a dire nei paesi dove vige il matriarcato. Questo libro, cominciare dal suo titolo, Sesso inutile, fu molto importante. Non fu politico, era un libro di storie di donne, però quasi contemporaneamente invece nasceva il femminismo impegnato. Abbiamo sentito il commento di Natalia Aspesi. Negli anni della guerra fredda, della corsa alla luna, Oriana va alla NASA, visita un mondo fatto di uomini, intervista gli astronauti che si preparano al grande lancio. E qui scrive il diario più originale, Quel giorno sulla luna. E innanzitutto è gente che studia moltissimo, studia di giorno, studia di notte, studia a casa, studia in allenamento, sono tutti ingegneri laureati in ingegneria astronautica. Studiano geologia, chimica, matematica, fisica, biologia e non soltanto studiano, sono sottoposti ad allenamenti severissimi nel deserto, nella giungla, hanno un orario d'ufficio da condannati ai lavori forzati. Questa è una domanda che ho rivolto a tutti gli astronauti. Ma tu hai paura? Ma lei ha paura? E tutti mi hanno dato una risposta che è una delle ragioni per cui li stimo molto e gli sono tanto affezionata. Tutti hanno risposto sì, a eccezione di Shepard, di un altro. Le posso dare la risposta esatta di White. Ecco qua. Lei pensa che avrà paura la prima volta che andrà su? Risposta. Chiunque le dica che non ha paura, mente. Nel 1968 i grandi inviati di tutto il mondo vengono mandati in Vietnam. È il grande giornalismo del fronte. Per l'europeo c'è Oriana Fallaci. Io ricordo che un pomeriggio andavo in pattuglia in una giungla delle Central Highlands, delle pianure centrali, con una squadra di americani e il caposquadra ha detto: let's hope we shall not find girls. Speriamo di non trovare ragazze. Io ho detto: ragazze? Cioè sì, le ragazze Vietcong sono le più coraggiose, le più pericolose. They scare me like hell, mi spaventano a morte. Ma il 68 per Oriana non è solo l'anno del Vietnam. L'America vede spegnersi Martin Luther King e John Kennedy. Oriana è là a raccontare la rabbia dei neri e lo scoramento dei bianchi. Poi in autunno esplode il Messico. Gli studenti dicono no alle Olimpiadi, vetrina costosa e ipocrita di un regime che tiene il paese nella miseria. E il 2 ottobre del 68 l'esercito spara sulla folla. Almeno 300 manifestanti vengono uccisi dalla polizia. Oriana è con gli studenti a Città del Messico. Rimane ferita gravemente e parla di un massacro peggiore di quelli visti in guerra. C'erano nella piazza delle tre culture all'incirca 6.000 studenti, avrei detto, 5-6.000 studenti. assolutamente tranquilli, assolutamente pacifici. È arrivata a un certo punto la delegazione dei ferrocarrilleros, degli operai delle ferrovie, e anche questo in grande ordine. Non c'è stato nessun episodio che potesse provocare questa irruzione pazza, violenta. Un ragazzo dell'università, un studente del Consiglio Nazionale dello Sciopero, stava informandoli che da lunedì prossimo gli studenti intendevano aprire uno sciopero della fame. A questo punto un elicottero ha incominciato a volare sulla piazza, sempre più basso, e poi a gettare dei bengala. Sai, sembrava il Vietnam. Nel giro di circa un minuto, forse mezzo minuto, i camion dell'esercito hanno completamente circondato la piazza da tutte le parti. Sono scesi, io credo, erano centinaia, sparando sulla folla. Io ero nella terrazza dell'edificio da cui loro parlavano. Nello stesso momento in cui l'esercito è piombato giù dai camion, sparando e massacrando, sono piombati in questa terrazza prima una quarantina, poi un'ottantina di poliziotti in civile con la rivoltella puntata, sparando su di noi. Nel 92, a 63 anni, ormai famosissima in tutto il mondo, Oriana Fallaci torna per l'ultima volta al fronte. È la prima guerra del Golfo, così dichiara in un'intervista del 5 febbraio del 91. Per una come me, che ha fatto il corrispondente di guerra buona parte della vita, è avvilente, è mortificante, è scomodo. Non vogliono che si veda i morti. In Vietnam abbiamo raccontato troppo, abbiamo visto troppi morti e li abbiamo fatti vedere troppo, o con le parole o con le immagini. Saddam Hussein non è uno Hitler, era un Mussolini, era un cialtrone che mandava i propri soldati alla guerra senza scarpe, senza mangiare, probabilmente anche con poche munizioni. Era un bugiardo, era un chiacchierone, vi farò nuotare nel vostro sangue. Invece no, ha fatto nuotare i propri uomini nel loro sangue. Oriana Fallaci muore a Firenze il 15 settembre del 2006, aveva 77 anni, aveva deciso di tornare nella sua città natale per passare gli ultimi giorni. La sua ultima guerra è stata quella contro il cancro. Il rapporto è un rapporto di guerra, è un rapporto tra due nemici che mirano a distruggersi, come alla guerra. Lui vuole ammazzare me e io voglio ammazzare lui. Alessandra Cravetto, buongiorno. Buongiorno Ale, come va? Bene Ale, ma oggi ti ho fatto una sorpresa. Davvero? Eh sì, perché ti ho portato un ospite molto molto particolare. Ed è l'uomo dei sogni per ogni smamma. Wow. È Matteo Bussola, che è l'autore di Notti in bianco e Baci a colazione, appena uscito per Einaudi, che di sé dice: di lavoro faccio il padre, di professione disegno fumetti. Lui vive in campagna con Paola e le loro tre bambine e anche due cani. Matteo, buongiorno. Buongiorno a voi. Ciao. Allora, ciao. 2 anni fa Matteo ha iniziato a raccontare le avventure della sua famiglia su Facebook, attimi di quotidianità, di normalità, che riesce a trasformare in storie che appassionano centinaia di migliaia di persone. Come quando racconta alla figlia come ha capito che la mamma sarebbe stata la mamma Ascoltami. Quando ci siamo incontrati la prima volta, si è sollevata i capelli dietro la nuca, sopra la testa, e si è fatta uno chignon senza neanche un elastico, solo annodandoli. E allora, gli ha chiesto la figlia, e allora lì ho capito che lei aveva disperatamente bisogno di un elastico, e io dei suoi capelli. Beh, stupendo, romanticissimo. Ecco, questo post viene tradotto in varie lingue e raccoglie alla fine più di 300.000 mi piace e 120.000 condivisioni, numeri da star, non da padre. Ecco, il libro di Matteo Bussola, Notti in bianco, Baci a colazione, parte proprio da questi post ed è già un caso editoriale. Allora Matteo, la prima cosa che ti voglio chiedere è: ma tu sei vero? Esisti? È una domanda che mi sono sentito rivolgere spesso. Io, scherzando, dico no, sono un algoritmo di Facebook. È possibile. Esatto. Comunque sì, naturalmente sono vero e naturalmente io questa cosa in realtà la faccio da più di 2 anni. Solo che il seguito delle persone è arrivato un po' per volta fino a toccare le cifre che tu dicevi poc'anzi. Ecco, in realtà io non credo affatto di fare qualcosa di speciale né di essere un papà speciale, men che meno l'uomo dei sogni. Conosco moltissimi papà che fanno esattamente le cose che faccio io, si occupano dei figli con continuità e attenzione. L'unica cosa di diverso che ho rispetto ai papà tradizionali è che forse io, anche per il mestiere che faccio, ho un po' più tempo a disposizione lavorando in casa da passare con le mie figlie e con la mia famiglia, e ho forse questa capacità, diciamo, di sviluppare piccole finestre all'interno delle quali inserisco queste narrazioni. Quindi diciamo che di differente ho forse la possibilità di parlarne di queste cose. Ecco Matteo, infatti io ti volevo chiedere proprio questo, perché tu lavori e la tua compagna, tua moglie anche. Però il fatto che sia tu quello che si occupa di più delle bambine è una questione di, non so, rapporto particolare con loro, predisposizione, insomma, sei più bravo di lei perché lei in fondo forse è una smamma come noi? No, assolutamente. Intanto delle bambine ci occupiamo esattamente in ugual misura. Capita che per questioni logistiche, essendo che in realtà è Paola la scrittrice di casa e Paola si trova meglio a lavorare la notte, prevalentemente. Il mattino, per esempio, sono sempre io che accompagno le bambine a scuola e quindi vivo questa felice finestra di dialoghi in auto o queste cose qua. E poi, ugualmente, per una divisione proprio che abbiamo fatto dei compiti in casa assolutamente condivisa, accettata fra di noi, per esempio in casa sono sempre io quello che cucina. Ma stiri modo... anche? No, stirare no. Stirare no, ah, vabbè. Se proprio devo, lo faccio, ma diciamo che quella è una cosa che attiene la sfera di Paola. Matteo, comunque tu non sarai l'uomo dei sogni, il fatto che tu lo dica forse ti rende ancora di più l'uomo dei sogni. Inarrivabile ormai, certo. Nell'iperuranio dell'uomo esatto. dei sogni. Ma detto questo, sono le donne ti seguono moltissimo, secondo te perché? Intanto non mi seguono solo le donne diciamo che manifestano forse più facilmente in maniera pubblica la loro sensibilità o la loro attenzione. I papà mi scrivono molto spesso in privato, facendomi confessioni anche abbastanza forti, delle volte che io accolgo come un grande privilegio. I papà, quelli che tu incontri al mattino e che probabilmente sono comunque meno dedicati rispetto a te, cioè, ti capiscono, non ti capiscono, ti invidiano, insomma, che fanno? Cioè, in qualche modo si sentono anche di dover dimostrare qualcosa in più avendo te così presente? Ma allora, i papà che io incontro al mattino credo che manco sappiano chi sono, quindi credo che proprio non abbiano... Lo sanno, lo sanno. Oggi lo sanno. Il confronto. Io credo che molti papà vorrebbero passare molto più tempo con i loro figli e con la propria famiglia, solo che magari non possono. Ritengo anche che negli ultimi tempi diciamo, i papà si stiano accorgendo sempre di più che forse in questi anni ci siamo persi qualcosa e rivendichino una loro dimensione affettiva e proprio di cura che gli appartiene e dalla quale sono stati in qualche modo estromessi, consapevolmente o meno, anche da fattori culturali. Matteo, tu riesci a rendere poetiche le notti insonni e le calze antiscivolo, ma secondo te il segreto poi del tuo successo è dovuto al fatto che alla fin fine tutti vogliono una casa, una famiglia, insomma la felicità della normalità? Sì, io credo che, guarda, vorrei essere molto esplicito su questo, io credo che nella nostra vita noi abbiamo un sacco di cose belle, credo che spesso siamo distratti dai problemi della vita di tutti i giorni, dei problemi di soldi, dei problemi lavorativi, lo sappiamo bene tutti, no? Di cosa stiamo parlando. Credo però anche, e forse questo è il segreto del piccolo seguito che sono riuscito ad attivare, in realtà io racconto sempre di cose sulla corta distanza, no? Cioè mi occupo di quello che c'è, non di quello che ci potrebbe essere. Grazie Matteo. Grazie. Vi ricordo Matteo Bussola, Notti in Bianco, Baci a colazione e in Audi. Ale, hai no, capito? Vabbè, cioè... No. Voglio dire, tu, cinica smamma, la felicità della normalità, vivi il presente, hai capito? No, vivo il presente, lui è meraviglioso, è fantastico, una normalità in cui ci si conquista spazio pezzettino a pezzettino, stupendo. Però arriva, il però c'è, perché la normalità a cui noi siamo abituati, a cui tanti sono abituati, purtroppo è anche un'altra. E rinuncia all'affidamento dei due bambini. Esatto, basta che la facciamo finita. Invece lei, signora Zecchi, per quanto riguarda la cifra, è d'accordo? E rinuncia all'affidamento dei due figli. Ma com'è possibile, scusate? Rinunciate tutte e due? Ma vi siete parlati? Hai capito che mi sono sposata? Un anno affettivo! Scusate, ma allora questi bambini dove li vogliamo mettere? Cancelliere, se li vuole portare lei a casa, c'è spazio, sì? Veramente casa mia è piccolissima. Già c'ho il cane. Bruno, riena una battuta. Si fa per dire. Signor giudice, il problema è anche che io con questi due bambini non vado d'accordo. Non riusciamo a comunicare. Posso dire sinceramente, questi due bambini non sono il massimo della simpatia. Ah, questo è vero, sono proprio antipatici. Ah, oui? E per forza, compate così. Compate così, ma se quelle sono figlie a te, tu le hai cresciute, tu le hai educate, mo te tiene. No, ti tieni tu. Ma sentite come parla, te tieni tu. Ti tieni tu. Sta cafu. E basta, silenzio. Che bella famiglia. Ma lo vedi che sei cinica? Stacafone, stupendo. Sei cinica. Dai. Comunque c'è anche questa fetta di normalità e di realtà qua. Genitori separati, figli rimpallati tra madri e padri che a loro volta si sono risposati con altre madri, con altri padri, con altri figli, cugini. Insomma, la gestione si complica e non poco nel caso delle famiglie allargate. Ecco appunto, ma per caso, ma solo per caso, ne parli con cognizione di causa? No. Ah, ecco. E soprattutto continui. Non con cognizione di causa, ma per sentito dire, non ti dico adesso che arrivano le vacanze. Allora, parte il calendario, settimana a me, settimana a te, poi il giorno della trasferta, lo conti con quello le è un mie, problema. No, quello è un problema. Ecco. Va diviso a zone e se passi il confine della regione allora è un pasticcio. Un'altra zona ancora. Ecco appunto. Però c'è una app, attenzione, si chiama Two Houses, pensata proprio da una mamma separata che si trovava a dover gestire i bambini insieme all'ex marito. Segnatela. Two Houses. Non è male, è interessante. È un'agenda interattiva condivisa in cui appunto puoi condividere tutte le informazioni relative ai bambini. Vaccinazione, il numero della maestra e soprattutto il calendario dei giorni che spettano a te e dei giorni che spettano a me. Vabbè, comunque ti posso dire, è utilissima anche per i genitori non separati. Sì, quello è vero, anche perché i papà, che saranno nella media molto meno efficienti di Matteo, possono partecipare attivamente alla gestione bambinesca. Ecco, però è questo che mi preoccupa, perché poi Two Houses, questa meravigliosa app, sì, chi la gestisce? La nonna. Ah, ecco. Viva la mamma! Viva le donne con i piedi per terra, le sorridenti miss del dopoguerra, pettinate come lei. E dalle app e i libri passiamo all'arte. Perché Bruno Pellegrino è stato un politico, è un giornalista, uno scrittore, un uomo di cultura e soprattutto di mondo. Bruno Pellegrino, superati i 60 anni, si è inventato una nuova vita, diventando anche un pittore. E dopo la sua personale desordio al complesso del Vittoriano di Roma, la sua nuova mostra, Le tentazioni della pittura, è stata inaugurata proprio ieri a Capalbio. Ecco, Pellegrino, qual è stata la tua tentazione della pittura? Ovvero, conoscendo così a fondo il mondo dell'arte e l'arte, come hai deciso di passare dall'altra parte iniziando a farla? Non ho deciso, ha deciso la pittura di catturarmi con gesti naturali, mi è venuto tutto molto istintivo. D'altro canto, le tentazioni e la pittura sono due termini quanto mai appropriati per cedere sempre alle tentazioni e godere dei piaceri della pittura. Sono un segno della mia vita in qualche misura. E qual è stata l'evoluzione del lo faccio anch'io? Ovvero ti sei sorpreso di quello che eri in grado di fare? Beh sì, in un certo senso sì, nel senso che quando si comincia, io non ho fatto scuola e quindi viene tutto con una certa naturalezza e poi insistendo nel tempo uno trova anche una cifra personale. Io esploro linguaggi, esploro materiali, esploro forme, esploro colore, sempre un po' più posseduto che in grado di possedere tutti questi elementi, e questo dà un piacere molto particolare. Se l'arte è un mestiere e come tale si impara, ci sarà pure un confine tra il mestiere vero e proprio e il talento. Tu quanto pensi che si possa ancora imparare nel tuo caso? Ma si impara tutti i giorni. Io non penso che l'arte sia un mestiere. Capita di potersi esprimere con una certa libertà e con una certa creatività, e certe cose non le programmi, o riescono o non riescono, o riesci a mettere nelle cose che fai un valore aggiunto di novità, di bellezza, di attrattività, oppure non succede assolutamente nulla. Ecco, da pittore, quanto è cambiato il tuo modo di osservare la realtà? Ma il mio modo di osservare la realtà è cambiato profondamente, nel senso che cose che prima guardavo con molta superficialità adesso le osservo molto più attentamente, ne vedo i colori, le forme, la sostanza. Però la mostra che si è aperta è una mostra, diciamo, sulla pittura, non solo sul figurativo ma anche sull'astratto, nel senso che chi verrà generosamente a vedere questi miei lavori troverà delle grandi sorprese, perché si passa dal figurativo all'astratto ma tenendo sempre la bussola di una immaginazione, e diciamo il colore e le forme fanno da padrone. Grazie Bruno Pellegrino. Le tentazioni della pittura fino al 10 luglio in mostra al Frantoio di Capalbio. E questa settimana la Sora Cesira ci racconta, come sempre a modo suo, le incertezze del voto a Roma. Era di giugno, il quinto giorno, mi asfissiava il candidato. Mamma mia, son disperato, al ballottaggio fammi andar. C'era Marchini, belli capelli, un po' basso coi sondaggi. Per non dirvi della Raggi, con la bici a far drin drin. E Fassina si aggirava un po' agitato fra la gente, con Giacchetti e la Meloni già convinti di volar. Non so chi vota, oh Madonna mia, che ci scrivo là, ho già l'allergia, sento le promesse per la mia città, niente più violenza e manco povertà, una casa a chi? Sotto i ponti alloggia, Vermentino e gin al posto della pioggia, devo andare, devo andare, devo andare, devo andare a votare, ma non so chi ascoltar, a chi retta a dar, non so chi vota. Vota, vota, vota, vota, ci vorrei andar, ci vorrei andar. Vota, vota, vota, vota, ma non so chi ascoltar, a chi retta a dar, non so chi vota. Boh. Buongiorno Pietrangelo. Buongiorno Alessandra. Allora Pietrangelo, dove mi porti? Guarda Alessandra, ti porto qui, ecco, aspetta. Ah, l'atmosfera è quella giusta. È quella di Battiato. Sì, e poi è l'ombra della luce. Allora, a proposito di ombra della luce, potremmo dire degli Holzweg, cioè dei sentieri interrotti, e ti porto in un posto meraviglioso, perché più delle librerie cosa può commuovere? Può commuovere l'università, e a Roma c'è la Pontificia Università Lateranense, e ti faccio conoscere padre Francesco Alfieri, che è docente di fenomenologia della religione qui. Buongiorno padre Francesco. Buongiorno a voi. Ecco padre Francesco Alfieri, con l'uscita del volume scritto insieme al professor von Hermann, Martin Heidegger, La verità sui quaderni neri, quali possono essere le ripercussioni su chi in questi anni ha strumentalizzato il pensiero di Heidegger con la polemica appunto sui quaderni neri? Io direi che dopo questo libro bisogna fare delle scelte molto responsabili. Una di queste è quella di tirare fuori Peter Straubny dalla cura dei quaderni neri e dalla cura delle opere di Heidegger. È inammissibile che chi ha generato una simile confusione rimanga a lavorare in maniera indisturbata alle opere di Heidegger. E qui credo che la famiglia Heidegger debba prendere delle scelte molto precise. E per quanto riguarda invece la versione italiana, credo che prima o poi bisogna fare e dare conti con chi invece cerca di strumentalizzare la cultura e creando delle basi ideologiche che sono molto molto pericolose. Questo serve non solo per i giovani, ma serve veramente per una sana cultura. Non è più possibile legare la filosofia alla ideologia. Diciamo allora che c'è stato un tentativo di cancellare e criminalizzare Martin Heidegger proprio sui quaderni neri, che ricordiamolo erano degli appunti non destinati alla pubblicazione, su cui affrontava le questioni del monoteismo ebraico e questioni filosofiche dove tutto c'è fuorché l'antisemitismo. Sì, è stato forte questo tentativo. E la cosa particolare che credo che sia pericoloso oggi, prima le calunnie nate su Heidegger erano invidie nate dalla, possiamo dire, dalla sua dalla potenza carriera, evocativa. Dalla sua carriera, perciò lui ha sempre sofferto di questi detrattori. Oggi invece si cerca di cancellare una buona parte della filosofia del Novecento, ma la cosa ancora molto più pericolosa è che c'è una forma di ideologia che cerca di farsi leva, tant'è che del nostro libro difficilmente abbiamo avuto delle accuse dalla controparte, così se vogliamo dire, è un po' passa nel dimenticatoio. Questo ci fa ancora capire che siamo sulla strada giusta. Si vuole cancellare una buona fetta della filosofia del Novecento. Grazie padre Alfieri. Grazie. Il libro Martin Heidegger, La verità sui quaderni neri, edizioni Morcelliana, di Francesco Alfieri e von Hermann. Difendimi dalle forze contrarie, la notte nel sonno quando non sono cosciente, quando il mio percorso si fa incerto. I David di Donatella, che poi sono io. Donatella, buongiorno. Guarda, peccato proprio che oggi non mi potete vedere, è un peccato. Ecco, proprio. Senta Donatella, noi non la vediamo mai perché alla radio noi non la vediamo mai. Lo sai che forse mi devi dare il numero di telefono di un tuo parente stretto? Perché? Perché io gli devo dire che tu non stai bene e ti devo aiutare tantissimo. Ma non lo capisci che è un modo di dire, solo perché oggi mi sono fatti i capelli bellissimi? Ah, bellissimi, sono felice, certo. Per lei. Perché a cosa dobbiamo questo evento, Donatella? Domenica c'è la comunione dei gemelli di mia sorella e siccome sotto casa mi ha aperto un Carrefour cinese... Un supermercato? Oh, santo cielo addolorato! Beh. Un Carrefour, un parrucchiere, un tagliatore di capelli, tutto come lo chiami? Donatella, lei voleva dire forse un coiffeur? Vabbè, quindi ho fatto il caschetto coreano con il trattamento zebra di luce. È fichissimo, lo vuoi fare anche tu? Guarda che ti sta bene. Ti do il numero? No, Donatella, anche no. Senta, le va di se parliamo un po' del film invece? Sì, parliamo del film, che è meglio. E io sono qui apposta per dirvi di questo, The Nice Guys. Brava. Per l'appunto si pronuncia, grazie, come l'ho detto io. E parla di questi due tipi investigatori, simpatici. Uno è grosso e rompe facilmente le ossa alla gente, l'altro invece è più secco e tranquillo e scopre dove sono andati a finire quelli che non si trovano più. La mafia vuole allungare le mani su Los Angeles. In qualche modo mia figlia Amelia è coinvolta. Vi prego, trovatela. L'hai mai vista? Che c'è per me? Usiamo le buone maniere. Abbiamo finito le buone maniere. Hai capito? Questi due si mettono insieme perché devono trovare questa ragazza, Amelie, che fa i film sozzi, si può dire? Si può dire, sì. Quelli dove manco parlano per tutto il tempo non fanno altro. Ecco, no, basta, abbiamo capito. Brava, hai capito? Tu secondo me li guardi. Ma che, Donatella, possiamo andare avanti, Donatella? Sì, ti ho capito, a te. Vabbè, comunque ci sono un sacco di botte e di inseguimenti e poi gli attori sono un sacco simpatici, anche se io sinceramente non li ho mai visti questi. Ma come no, Donatella, non ha mai visto Il Gladiatore, Russell Crowe? Sarà una di quelle schifezze che guardi tu. Sento, l'ho capito, c'è questo gladiatore porno. No, gladiatore. Che si tira giù i pantaloni, poi si prende le monete. No, Donatella, va bene, senta, vale la pena andare a vedere The Nice Guys di Shane Black con Russell Crowe, Ryan Gosling e Kim Basinger? Ma per te che vedi film sozzi forse no, per gli altri invece sì, perché è un film di divertimento, di scappare, di risate, di azione, di macchine, di pugni, di ossa sbriciolate, di attori biondi, di musica svelta. Senta, Donatella, ma che cosa le succede? Le è presa la fissazione per le liste? Per chi? Per le liste. Io non lo so che dici, però non ti capisco ultimamente. Donatella, io la ringrazio, grazie Donatella. Allora, lo vuoi il numero del mio Carrefour cinese? Ed eccoci con la musica di Franco Schipani. Buongiorno Franco. Ciao Alessandra Fiori. pezzi di stella, pezzi di costellazione, pezzi d'amore eterno, pezzi di stagione, pezzi di ceramica, pezzi di vetro, pezzi di occhi che si guardano. Pezzi di amore eterno, Franco? Anche. Lo sai qual è la mia preferita? Qual è? Vecchi amici, te l'ho detto, credo, già mille volte. Vecchi amici. Io non la conoscevo bene, ma me la sono andata a riascoltare e mi piace anche bene. Meno male, tu sei seduto nel buio, io lavoro nella luce. Wow. Tu sei seduto in silenzio, io vivo con la mia voce. Veramente. Un poeta questo Francesco De Gregori, un cantautore, però lui dice: io sono un artista, definitemi così. Comunque è anche uno tra gli artisti con il maggior numero di riconoscimenti da parte del Club Tenco, ha preso tante targhe. Sei. È un premio per le parole della musica, quindi lo vediamo venerdì 3, quindi questa sera al Teatro Romano a Regaste Redentore di Verona. Cross the desert to be where you are. All the things I do to be close to you. A me Laura Pausini piace quando canta in spagnolo. E a me quando cantava La solitudine In italiano. E allora l'ho messa in inglese. Bravo. Così mischiamo le carte. Lei ha iniziato la carriera, come sa, nel 1993, vincendo il Festival di Sanremo nella sezione novità con il brano La solitudine. Poi ha partecipato ancora una volta nel 94 a Sanremo, è arrivata terza, solo Strani terza. Amori. Strani amori. Hai visto? Sei preparatissima. No, l'ho letto, Franco. Ha letto. Sì. Un bel blef. E ha raggiunto poi il grande successo internazionale, specialmente in America Latina, dove quando tu dici che Laura Pausini è italiana, dico: no, è de Puerto Rico. No, è italiana Laura Pausini, è ufficiale, e ce lo potrete dire lei stessa dopodomani allo Stadio San Siro a Milano, concerto alle ore 21, ne vale la pena. Marlon Brando, è sempre lui, diceva Ligabue, che fa anche rima. È sempre lui, in effetti. Marlon Brando. Nel 2004, a 80 anni, si spegne il protagonista del Padrino, Ultimo Tango a Parigi, Fronte del Porto, un tram che si chiama Desiderio, tra gli altri grandi capolavori. Marlon Brando nasce in una famiglia problematica e tormentata, la sua infanzia difficile ed infelice, un dolore di fondo che lo accompagnerà per tutta la vita. È la storia di un attore indimenticabile, di un uomo che ha saputo tenere le sue tragedie personali fuori dai riflettori di Hollywood. Una bella storia, ce la racconta Giovanni Minoli. Restate in ascolto. E gli disse: questa sera voglio far l'amore, prima però